passato adesso è già passato. Ha lasciato qualche fiore andato via, colpa sua, colpa mia. E se il cuore sta in un pugno allora apro la mia mano, soffio e vola via. E sarà polline su un prato lontano. Fosse solo un velo che divide l'esistenza in due metà, io di qua, tu di là. Dentro un'altra casa siderale, dove il tempo passa ma la vita no, e l'aria gelsomino e mare.